Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telespero. Eccoci, siamo pronti, buon pomeriggio a tutti voi in contatto su Radio 24, questo è il soundcheck di Radio 24, buon pomeriggio da Gigi Telespero, sempre qui dalla Swing House di Renzo Arbore, che ringrazio per l'ospitalità. Buon pomeriggio, no, per carità, è un piacere riceverti e ricevere tutti gli ascoltatori di Radio 24, soprattutto perché parliamo di una cosa che mi sta molto a cuore, che è lo swing. Una settimana dedicata allo swing è un regalo per me, perché è una delle musiche che io prediligo insieme alle canzoni napoletane, al jazz, e, per carità, anche al folk, anche alla musica di Capoverde, anche alla musica brasiliana, anche alla musica portoricana, anche alla musica cubana, anche... Vuoi citare tutti gli stili? Beh, no, per la verità, devo dire la verità, anche la musica, per la verità a me piace un po' tutta la musica, questo è forse la mia caratteristica, ecco, però lo swing è il ritmo che prediligo. Mi servi un pallone importante, parlando, facendo un ponte con lo sport che c'è stato poco fa, perché ecco, quando si parla di swing bisogna distinguere se si parla del genere swing o se si parla di swing come pulsazione ritmica, perché i musicisti se non hanno swing, cioè se non hanno il senso dello swing, sicuramente avranno qualche problema da grande. Sì, certamente, certamente non fanno il jazz, non certamente sono, non possono fare il jazz. Ecco, però c'è qualcuno che ha swing pur non essendo un musicista di jazz, si chiamava Giovanni Sebastiano Bach, aveva uno swing straordinario, tant'è vero che molti jazzisti fanno Bach mettendoci il ritmo dietro lo swing, il ritmo, perché... No, ecco, vedi qua, sei forte, perché mi ricordo anche un'altra cosa, durante l'estate c'è stata una grandissima polemica attivata da una dichiarazione del pianista Giovanni Allevi, che pare abbia appreso il senso del ritmo lavorando con Giovanotti e senz'altro non dalle nozioni apprese dagli studi di Beethoven. Ah, sì, vabbè, certo, non voglio entrare in polemica, per carità, ma comunque diciamo che lo swing ce l'avevano anche alcuni musicisti accademici senza saperlo, non lo sapevano quelli antichi. Poi naturalmente quando è arrivata la musica americana, che è la musica tipica dello swing, con lo swing, anche perché la musica ritmica americana è arrivata in piena swing era, che era proprio l'era del jazz, che si chiamava così, swing era, perché era gli americani ballavano questa musica, gli anni di Scott Fitzgerald, gli anni del proibizionismo, anche perché c'era questa musica che impazzava, Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Lunceford, Cam Basie, le grandissime big band, sì, pure. Serviva anche per ballare moltissimo, allora si ballava questa musica. E in Italia che cosa succedeva? No, in Italia succedeva che arrivava un po' di contrabbando, per esempio prima della guerra già era molto popolare in Italia Raba, che io non posso dimenticare, baciami piccina, bocca piccolino, che era proprio Alberto Rabagliati, faceva lo swing ante litteram, e tant'è vero che fu chiamato negli Stati Uniti per fare la parte di Rodolfo Valentino, era un bellissimo uomo milanese straordinario, un cumenda milanese straordinario. E poi naturalmente subito dopo la guerra arrivò, sempre appresso agli americani, arrivò Natalino Otto, Flo Sandons, Ernesto Bonino, Gorni Kramer, Francesco Ferrari, Lelio Luttazzi, Armando Tovaglioli, perfino tutti facevano swing o scrivevano canzoni swing, e perfino altri che erano profondamente italiani, come per esempio molti anni più tardi un tale Domenico Modugno, che con Volare nel blu dipinto di blu, aveva certamente una carica swing straordinaria. Allora, visto che parli di Modugno, facciamo una cosa, apriamo proprio con un brano tratto da questa nuova pubblicazione che hai realizzato, questa tua americana, in questa tua versione di Ciao Ciao Bambina. Sì, Renzo Arbored Herb Originals è in americano questa versione, ed è praticamente Piove, la canzone di Modugno, però cantata in americano. Per il pubblico. Sentiamo che è combinato. Oh, are they teardrops for the love we knew? Ciao, ciao, bambina. My heart is calling. While rain is falling, I cry with you. La voce, il sound e il pianoforte suonato da Renzo Arbore in questa versione di Ciao Ciao Bambina, ovvero Piove, in americano come l'ha intitolata? Ciao ciao bambina. Ciao ciao bambina. Ciao, perché, ciao, bambina. Ciao ciao bambina, perché è una delle frasi più comuni italiane che dicono anche gli americani. Quando incontrano una bella ragazza dicono ciao ciao bambina, fortunatamente. Quindi è rimasto questo titolo qua. Per il piano mi dovete accontentare, perché io ho uno stile pianistico inventato da me che si chiama, adesso non so in americano, ma in italiano io l'ho chiamato Come se scottasse. Io il piano, vabbè, che lo si rifà tocco, un po' lo stile di minimale di Count Basie, no? Sì, Count Basie. Poche note ma buone. Sì, poche note ma buone. E poi un po' anche lo stile di un certo Lionel Hampton, che suonava il vibrafono, però suonava anche il pianoforte, e aveva inventato uno stile che si chiamava two-fingered style, due dita. Esatto. Suonava il piano con due dita soltanto, come se fosse le bacchette del vibrafono. Io lo suono con tutte e 10 le dita, però prudentemente, come se scottasse. Allora, facciamo una breve pausa e poi rientriamo con Frank Sinatra. Tu ieri mi hai detto, guarda Frank Sinatra, parla di Frank Sinatra, eccolo qui, te lo propongo subito su un piatto d'argento. Lo ascoltiamo fra pochissimo, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Say, I hope you're feeling better. Close with love the way you do. I'm gonna sit down, write myself a letter, and make believe it came from you. Gonna sit right down and write myself a letter, and make believe it came from you. Lo chiamavano The Voice e invece nella vita era Frank Sinatra. Aveva poi un nome italiano, che cos'era? Francesco, Renzo? Frankie Sinatra. Ma poi aveva anche un altro soprannome, All Blue Eyes, vecchi azzurri, occhi azzurri, perché aveva questi occhi azzurri straordinari. E io ho avuto modo di conoscerlo. Per favore, raccontami. No, l'ho conosciuto e gli ho offerto, prendendo da un vasetto, un mazzetto di basilico, perché lui aveva, da buon di origine genovese, aveva una grande passione per il pesto, per proprio la pasta al pesto, e la pasta al pesto si fa con il basilico genovese, per la verità. E allora gli avevano fatto trovare in questo albergo di Roma, Majestic, un bel vaso con il pesto, e io ho preso un pezzo di questo pesto, gliel'ho fatto durare, lui non sapendo chi fossi, è stato lo stesso molto grato. Era già un po' invecchiatello Frank Sinatra, poi lo avevo già conosciuto e sentito invece a New York alla Carnegie Hall in un concerto memorabile in cui diceva delle battute straordinarie. E quindi non l'hai mai incontrato professionalmente, come invece hai incontrato tanti artisti. Mi ha scioccato vedere questo filmato di presentazione che porterai a New York il 14 ottobre, lì a Italy, dove verrai celebrato. Che cosa farà faranno non un tributo, lascia perdere, però che cos'è, chi è Renzo Arbore, che cosa faranno? Sì, vabbè, è un, si chiama Show Hill, è un film sulla mia voglia di essere americano. Di fare l'americano, ecco, mi ha scioccato il numero e anche i nomi prestigiosi di artisti, tanti, attori, musicisti, cantanti che hai incontrato, conosciuto, con i quali hai duettato, e fra i tanti c'è anche uno dei miei cantanti preferiti, che è un grandissimo maestro oggi della vocalità contemporanea, e si chiama Bobby McFerrin. Beh, Bobby McFerrin l'ho portato io per la prima volta in Italia in un programma dedicato ai 60 anni della radio, si chiamava Cari amici vicini e lontani, e io invitai Bobby McFerrin, sì, che era assolutamente sconosciuto, molti anni prima del successo con Don't Worry Be Happy, come no, che fece poi un bellissimo brano improvvisato con il più grande flautista del mondo, Severino Gazzelloni, che non c'è più. Ecco, qui incontriamo Bobby McFerrin dalla nuova pubblicazione dedicata agli spiritual, perché Bobby viene da una famiglia di predicatori e quindi ha nel DNA la Chiesa con i suoi spiritual, e qui interpreta proprio un classico del repertorio, tant'è vero che non ci sono scritti autori, compositori né editori, perché è proprio traditional, cioè Joshua alla battaglia di Gerico. Ma la voce, è uno spiritual. Vuoi sapere come fa? Sì, accenna, però poi dopo Joshua, the battle of Jericho, Jericho, Jericho, Joshua, the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You talk about King of Gideon, you talk about King of Saul, you talk about King of Gideon, feed the battle of Jericho, Joseph, feed the battle of Jericho, Jericho, Jericho, Jericho, Joseph, feed the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. La fa molto meglio però Bobby McFerrin adesso. Allora ascoltiamolo. Sound check. Check, check, one, two. Il suono della musica. Sound check. Il suono della musica. Eccoci operativi dalla Swing House di Renzo Arbore, grazie ancora per l'ospitalità. Ma per grazie. Carità, ma benvenuti voi con i microfoni e le attrezzature di Radio 24 e benvenuti agli ascoltatori di Radio 24. Allora lo dico perché una delle prerogative del nostro soundcheck è che saremo sempre in movimento, anche perché ci sono molti appuntamenti live che devo seguire, e quindi sarebbe diventato complesso. Sì, bisogna essere movimentati nella vita. Sì, ma no, ma anche vita. Perché credo che la musica vada seguita e inseguita, e quindi conviene portarsi la radio dietro piuttosto che stare in radio. E il titolo della mia tournée, sai qual è? Quale sarà? No, e lo è sempre stato sui manifesti che ci sono sparsi per la penisola quando vado in giro con l'orchestra italiana. Il titolo è Appresso alla musica. Bello, perché è la frase che mi diceva sempre mio padre per farmi studiare giurisprudenza, diceva: tu la devi smettere di andare appresso alla musica. E voleva che io diventassi prima dentista e poi però avvocato. Poi la laurea, la laurea gliel'hai consegnata, sì, no? Come no, però sono andato appresso alla musica, ancora oggi alla mia età io vado appresso alla musica. Sei soddisfatto di tutto quello che hai fatto? Beh, devo dire di sì, insomma, mi manca questa cosa terribile del ballo, perché è sempre quella che io vorrei fare. Sto cercando il tutù numero 54, perché volevo fare la morte del cigno, la danza delle ore, eccetera. Però, siccome mi sono operato all'anca, sulle punte, no, soprattutto con la gamba operata, mi riesce pochissimo fare il ballo sulle ore. Allora, non so se può consolarti, ma c'è un signore che noi ospitammo ad hoc il glorioso programma di musica in Rai, che oggi è quasi novantenne e si chiama Mose Ellison, lo ricordi? Sì, come no. Che continua a fare musica e a proporre il suo stile unico. È sempre stato molto originale Mose Ellison, che ha iniziato a studiare musica suonando la tromba, poi è passato al pianoforte, al canto, scrive canzoni molto originali con dei testi divertentissimi, e qui lo ascoltiamo dal l'ultimo album che ha realizzato in I'm Alright, e quindi lui sta molto bene, ma soprattutto quando non è in compagnia della sua donna. Eccolo là. I'm alright, I'm alright without you. I'm alright, I'm alright, I'm alright, I'm alright without you. Allora siamo ai saluti, Renzo, termina un'altra settimana e io non so se tu hai mai sentito la voce e il suono di questo ragazzo bluesman songwriter che si chiama John Mayer. L'ho sentito poco tempo fa. Oh, e allora mi è piaciuto moltissimo. Vorrei chiudere con John Mayer e con questa canzone, ricordando che poi alla fine per avere successo con la musica basta scrivere una canzone buona, no? Certo, è quello che io sostengo sempre, perlomeno come trampolino di lancio, capito? Una canzone, ma vedo che tutti i cantanti poi hanno cominciato con una canzone, Fotoromanza, Gianna Nannini. Senti, quando ti arriva il rendiconto della SIAE, qual è fra le tue composizioni immortali quella che in qualche modo guadagna di più? Beh, quella più poetica, lo diceva Neruda, che di giorno si suda, rispondeva Picasso, è un trattato io di filosofico. Giorno mi scasso, ecco. Ma la notte, devo dire che ancora vengo dalla Calabria, ho fatto un concerto straordinario a Pianopoli pochi giorni fa, e appena io dico lo diceva Neruda, ma la notte no, è un urlo di scatta il putiferio. Sì, scatta il putiferio, come se sono tutti come dire, tutti come se fosse polemica nei confronti della televisione di oggi, tutti solidali con quella televisione lì del allora, tempo. Domani parliamo anche un po' di televisione. Vabbè, domani vabbè. Ci salutiamo. Intanto ascoltiamo John Mayer. L'appuntamento è a domani, sempre qui su Radio 24 con il nostro soundcheck. It's been a long time since 22. Soundcheck. Il suono della musica.